Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sui profughi Angela Merkel ringrazia i cittadini e stanzia altri 3 miliardi per l'accoglienza. Hollande dice che la Francia prepara raid sulla Siria. Salvini si scaglia contro Renzi, è un verme, usa la morte del piccolo Aylan per propaganda. Il premier ieri aveva attaccato la destra, noi siamo esseri umani, loro bestie. Pensioni, sembra tramontare l'ipotesi di un intervento già quest'anno, non ci sarebbe copertura, bene se si fanno tagli di tasse alle imprese, dice Squinzi, meglio di quelli alla TASI. Protesta contro il crollo del prezzo del latte, migliaia di agricoltori in marcia a Bruxelles, gli allevatori bloccano il confine tra Italia e Austria. Riparte la scuola, si inizia dall'Alto Adige e riparte con molti dubbi, un po' di confusione, rischi di agitazioni tra gli insegnanti. Altre due sparatorie a Napoli tra ieri sera e stamattina all'alba, 2 omicidi domenica. Una buona giornata da Simone Spezia e ben ritrovati con Effetto Giorno. Se volete, come sempre, potete scriverci a effettogiorno@radio24.it o via sms al 349-238-6666. Ben ritrovati, dunque iniziamo ancora dalle vicende che riguardano l'immigrazione e l'ondata di profughi che sta arrivando in Europa, perché ce ne sono molte che stanno arrivando negli ultimi minuti. Innanzitutto le indiscrezioni da El País sul piano della Commissione Europea per il ricollocamento dei rifugiati, dei 120.000 rifugiati, circa il 60% andrebbe a Germania, Francia e Spagna. Nel frattempo il Presidente del Consiglio proprio pochi istanti fa ha sentito la cancelliera tedesca Angela Merkel dicendo che c'è un cambio di passo in Europa. E un'altra notizia di pochi istanti fa è che proprio in Spagna, uno dei paesi dei quali parlavamo poco fa, le forze antisommossa sono intervenute nel centro per stranieri di Zapatores a Valencia, usando anche proiettili di gomma per reprimere una rivolta di decine di immigrati. Andiamo con ordine, iniziamo a parlare appunto del meccanismo di accoglienza messo in atto da Germania e Austria e dalle di Angela Merkel. Il 16 luglio scorso la cancelliera dichiarò che era impossibile accogliere tutti. A distanza di quasi 2 mesi, il concetto di fondo è rimasto lo stesso. Chi non ha bisogno di protezione dovrà tornare indietro, ha ribadito la Merkel, ma si è molto ammorbidito. Ora che la pressione alle porte del paese si stava facendo insopportabile. Quello che stiamo vivendo è qualcosa che occuperà e cambierà il nostro paese nei prossimi anni, afferma la Merkel. Vogliamo che il cambiamento sia positivo e crediamo di poterlo ottenere. Questo è il vero volto dell'Europa, sottolinea l'alto rappresentante Mogherini, sinonimo di accoglienza, invocata anche dal segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che chiede di trovare presto un approccio comune per condividere equamente le responsabilità. La tensione alla stazione Keleti a Budapest si è dissolta. La marcia della speranza, centinaia di macchine partite da Vienna, ha accompagnato i profughi dal confine ungherese fino alla capitale austriaca. Tanti sorrisi e cartelli di fortuna con su scritto grazie tra i migranti, a un passo da una nuova vita. Una speranza lontana, invece, per tutti i profughi bloccati a Lesbo e a Kos dalle autorità greche. Una speranza svanita per quei 20 che sarebbero caduti in mare da un barcone nel canale di Sicilia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dunque da Germania e Austria, mentre prosegue il nostro viaggio, il viaggio di Radio 24 ai confini dell'Europa, un viaggio che troverete in questa trasmissione, che sarà un Euroreportage in onda ogni sabato, un appuntamento anche nei nostri giornali radio. La settimana scorsa siamo andati in Ungheria, oggi andiamo al confine tra Bulgaria, Turchia e Grecia, dove si sta dirigendo la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno innanzitutto. Ciao Simone, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. La cosa che vorremmo sapere da te, intanto poi torneremo a collegarci con te nel corso della trasmissione, è come si sta comportando la Bulgaria nella gestione di questa emergenza. Diciamo che queste ore per la Bulgaria sono delle ore davvero difficili e di incertezza, e sono molto curiosa di sentire quello che nei prossimi giorni mi dirà il ministro dell'interno che incontrerò, perché in queste ore su tutti i giornali bulgari campeggiano ovviamente le immagini dei profughi siriani accolti in Germania, ma ci ci sono, non soltanto per dovere di cronaca, ma anche per una domanda che ora qui tutti si fanno, a cominciare dagli investigatori. L'apertura delle porte della Germania nei confronti dei siriani e soprattutto anche invece le barriere innalzate dall'Ungheria faranno sì che questa rotta, cioè quella del confine tra la Turchia e la Bulgaria, torni a diventare una delle principali, una delle più battute da parte dei migranti che cercano di arrivare in Europa. È molto probabile, questo è quello che pensano anche le autorità della polizia serba, che hanno detto nei prossimi giorni, e questo perché nessun muro, ci ha detto poco fa il portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati in Bulgaria, Boris Cherkikov, potrà mai bloccare popoli interi, neppure il muro che Sofia già da tempo fa correre lungo il confine con la Turchia, 160 chilometri, un muro che ora sta ulteriormente allungando e che sta pensando anche di incrementare sul modello dei checkpoint israeliani. Qui il messaggio che si vuole far passare è innanzitutto quello di rassicurazione nei confini. La Bulgaria è uno dei paesi che continua ad essere più chiusi, che ad avere da più tempo una politica maggiormente di chiusura nei confronti dei migranti che in passato sono pur arrivati numerosi, ma questo appunto è un momento delicato di passaggio e di cambiamento anche per questo paese, che appunto fino adesso ha avuto una politica assai poco accogliente, per dirla con un eufemismo, nei confronti dei migranti. Simona. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, con la quale torneremo, come si diceva, a collegarci più avanti nel corso della trasmissione, e con la quale parleremo anche di che cosa rappresenta questo confine così delicato appunto tra Bulgaria, Turchia e Grecia. Noi, come abbiamo visto, c'è una ondata di solidarietà che passa dalla Germania, passa dall'Austria, passa anche dal Vaticano. Ce ne parla Daniele Biacchessi. In mezzo ad una delle più gravi emergenze umanitarie degli ultimi 20 anni si rafforza un ampio fronte della solidarietà, che si contrappone all'Ungheria che erige muri contro i migranti, alla polizia cieca che identifica i profughi con numeri scritti sul braccio con pennarello, alle derive xenofobe e razziste di numerosi leader politici europei. In primis c'è la Chiesa Cattolica, con l'appello di Papa Francesco, che dice: ogni parrocchia e comunità religiosa a partire dal Vaticano accoglie una famiglia di profughi. Di poco anticipato dall'iniziativa dell'Arcivescovo di Milano Scola e dalla Caritas Lombarda. A cambiare il clima c'è la posizione di Angela Merkel in tema di immigrazione. Ci sono gli applausi all'arrivo dei profughi da parte di persone comuni. C'è la sfida dell'Austria all'Ungheria di Orbán. C'è una rete di migliaia di volontari austriaci stipati in 300 auto che vanno ad accogliere i siriani bloccati al confine. Non sappiamo se nel cuore dell'Europa prevarrà il nuovo fronte solidale. Sappiamo però che quello che stiamo assistendo non è certamente un movimento organizzato, ma la sommatoria di tante buone pratiche realizzate sul campo da istituzioni e associazioni. Così dunque Daniele Biacchessi, e naturalmente c'è anche tutto un fronte italiano, c'è la telefonata della quale vi abbiamo parlato in apertura del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ad Angela Merkel, ma ci sono anche le dichiarazioni molto dure di Matteo Salvini nei confronti dello stesso Renzi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, c'è un cambio di passo in Europa, a ribadirlo il Premier Matteo Renzi, che ha avuto un colloquio telefonico con la cancelliera Angela Merkel proprio sul tema immigrazione, un cambio significativo rispetto a soli pochi mesi fa e del quale l'Italia non può che essere felice e orgogliosa. Questo Renzi, più realismo e meno buonismo, auspica invece Federica Mogherini per Lady Pesh: nostro dovere morale e legale proteggere il flusso di rifugiati in fuga da guerra e morte. Intanto però in Italia è polemica tra il leader della Lega Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ieri il Premier aveva detto che sul tema migranti non c'è il PD contro le destre, ci sono umani contro le bestie. Oggi la replica di Salvini: un presidente del Consiglio che usa un bambino morto per la sua campagna elettorale è un verme. Queste le parole del leader della Lega. Per Giovanni Toti invece di Forza Italia bisogna dare asilo politico solo a chi ne ha il diritto, non ai migranti economici. Interviene anche la Chiesa, come abbiamo già sentito. Il presidente dei Vescovi Italiani, Cardinale Bagnasco, torna sull'appello del Papa riguardo all'accoglienza. Siamo pronti a sfidare paure e pregiudizi, no a conflitti e intolleranze, le polemiche non aiutano. Questo quindi il fronte politico. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e più avanti torneremo a parlare di questi temi, così come parleremo del fronte che potremmo definire militare, ossia l'idea di François Hollande lanciata oggi di far partire dei raid sulla Siria che servano anche evidentemente a limitare questa emergenza, oltre a risolvere la situazione in un paese in guerra civile da anni. Vedremo di che cosa si sta parlando in queste ore. Intanto restiamo sull'Italia e passiamo alla pagina economica, che ci parla soprattutto della definizione della legge di stabilità e del DEF dei prossimi mesi, il documento di economia e finanza. Sembra uscire il capitolo sulle pensioni, se ne apre uno sulle tasse per le imprese, e parla questa mattina il presidente di Confindustria, Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. È così alla legge di stabilità e a quanto sta preparando il governo per le prossime settimane. Guarda, allora, questa mattina il presidente di Confindustria Squinzi, dopo le parole del ministro dell'economia Padoan. L'ipotesi di sgravi alle imprese è un fatto positivo, dice il leader degli industriali. È meglio ridurre le tasse su chi produce, fa capire Squinzi, piuttosto che ridurre le tasse sulle case come IMU e TASI. Ed ancora, sempre Squinzi, l'intervento di riduzione della pressione fiscale deve essere finanziata attraverso una vera spending review, di cui in questo momento non vediamo però traccia. Il problema delle coperture, Simone, resta dunque alla base di tutta la politica economica del governo. Emblematico è il caso delle pensioni, con l'annunciato progetto di favorire una certa flessibilità in uscita. Su questo punto, proprio per un problema di risorse, sembrerebbe esserci una frenata da parte del governo. La conferma indiretta arriva dal sottosegretario all'economia Zanetti, che dice molto bene le chiare parole del premier Renzi sul via libera flessibilità in uscita solo a condizioni di parità di gettito. In allarme allora il sindacato: non vogliamo credere che ciò accada, dicono dalla UIL, perché ci troveremmo di fronte al protrarsi di iniquità e di ingiustizie alle quali tutti dicono di voler porre rimedio. Sull'autunno economico di Palazzo Chigi interviene infine l'ex premier Letta, che si augura che il governo intervenga sui tagli di spesa piuttosto che creando nuovo deficit. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Migliaia di agricoltori e allevatori sono in marcia a Bruxelles, e non solo in realtà, anche sull'autostrada del Brennero, qualcuno dei nostri ascoltatori che magari in macchina se ne sarà accorto, per protestare contro il calo del prezzo del latte. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, una protesta in concomitanza con il vertice straordinario dei ministri dell'agricoltura a Bruxelles. Sul tavolo la crisi del settore lattiero in primis, dovuta in particolare al drastico calo del prezzo alla produzione come conseguenza della fine delle quote latte, ma anche il comparto della carne suina, bovina, la crisi dell'ortofrutta legata qui a un calo dei consumi interni all'embargo russo. Insomma, un contesto di difficoltà che attraversa tutti i settori dell'agroalimentare, che è l'origine di questa protesta. Migliaia di agricoltori allevatori da questa mattina con i loro trattori manifestano appunto sia a Bruxelles sia al Brennero, lungo la frontiera tra Austria e Italia. A Bruxelles momenti di tensione con tafferugli nei pressi delle istituzioni comunitarie, un poliziotto è rimasto ferito. Sul Brennero invece i tir vengono fermati da manifestanti per controllare le merci trasportate e smascherare il finto made in Italy. La Coldiretti lì è in prima linea, denuncia l'assenza appunto di regole europee sull'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari, e lì abbiamo raggiunto Ettore Prandini, che è vicepresidente della Coldiretti. Sentiamo. Noi siamo con migliaia di persone sul valico del Brennero e stiamo ovviamente bloccando quelli che sono i camion, aprendo i camion e dimostrando ai cittadini e ai consumatori quello che viene importato, quello che viene già in tanti casi, scusa il gioco di parole, ma importato e confezionato come agroalimentare italiano, ma che appunto con l'agroalimentare italiano. Ah, quindi state bloccando proprio i camion? Sì, vengono fermati i camion, vengono aperti i camion e poi ovviamente dopo aver fatto il controllo sull'importazione dei prodotti è chiaro che questo ovviamente viene dato la possibilità di procedere in quello che è il loro percorso. Ma quanti siete in tutto? Siamo circa 2000 persone. E andrà avanti per tutta la mattina questa manifestazione? Andrà avanti per tutta la giornata la manifestazione e poi continuerà anche domani. E dunque, tra le richieste delle varie associazioni all'Europa, un prezzo di intervento sul latte, l'apertura dello stoccaggio privato e formaggi, una politica trasparente dell'origine sull'etichetta per combattere le regole sleali. Il vertice dei ministri dell'agricoltura è ancora in corso, domani invece ci sarà una riunione straordinaria della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. E per ora è tutto. E grazie Alessandra Schepisi anche per questo aggiornamento. Si parlava di tafferugli, vi do una notizia di tafferugli di tutt'altro tipo che si sono verificati poco fa, una notizia di pochi istanti fa. Residenti, amici e parenti dei proprietari di una villetta di Contrada Maddalusa ad Agrigento, e siamo nella Valle dei Templi, si sono scagliati contro l'autista della Ruspa che si sta avvicinando per iniziare la demolizione di un manifatto abusivo. Polizia e carabinieri hanno formato un cordone e stanno cercando di riportare la calma. Appena avremo aggiornamenti su questo, ovviamente ve li daremo. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo a Venezia per il Festival del Cinema. Marta Cagnola, buongiorno, che succede oggi? Buongiorno Simone, beh sì, cambiamo decisamente argomento. Intanto parliamo del fatto che è passato uno dei film più attesi del concorso, film italiano, ma l'attesa era proprio anche tutta internazionale, Bigger Splash di Luca Guadagnino, che nasce come remake della Piscina di Jacques Deray. Diciamo subito grandi applausi e grandi fischi insieme, davvero critici divisi per un film bellissimo per due terzi, scelte visive incredibili, interpretazioni straordinarie di Tilda Swinton, Ralph Fiennes, poi una virata verso un finale molto discutibile e molto discusso con Corrado Guzzanti, improbabile siciliano, un finale che lascia un po' perplessi. Oggi però, mi chiedevi di oggi, beh oggi è anche il film di un giorno, di un film che non può non commuovere, fuori concorso purtroppo, Non essere cattivo, film postumo di Claudio Caligari, scomparso in maggio, film voluto tantissimo con tutte le forze da Valerio Mastandrea. Bravissimi Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che sono gli eredi dell'amore tossico di Claudio Caligari, ambientato in una storia di periferia nella Roma degli anni 90. E per ora Simone da Venezia è tutto. E grazie alla nostra inviata a Venezia Marta Cagnola. Prima di chiudere questa prima parte, un punto sportivo con una giornata, se vogliamo, a due facce per quelli, sì, che potremmo definire i colori italiani, Carlo Genta, no? Sì Simone, due facce che sono un po' la stessa, nel senso che l'Italia del calcio batte 1-0 la Bulgaria a Palermo, 21.000 spettatori, decide subito un rigore di De Rossi e poi tanta sofferenza, ma ormai siamo abituati a questo copione. C'è poi l'Italia del basket che batte agli europei a Berlino una squadra modesta come l'Islanda, facendo un sacco di fatica, però rimaniamo in corsa sui due fronti. L'Italia del calcio è vicina all'obiettivo, cioè alla qualificazione, anche perché la Croazia ormai non ne azzecca più una, ha perso ancora ieri, quindi non ci sono grandi avversari in questo girone. È una squadra in costruzione, quella del calcio, e ci sarà tempo perché gli europei sono la prossima primavera. Non c'è tempo invece per l'Italia del basket, oggi c'è riposo e poi in un girone difficilissimo si torna a giocare con una Spagna che ieri ha impressionato e ha distrutto la Turchia, che aveva battuto l'Italia nella prima partita. Carlo, prima di chiudere, mi toglie una curiosità, ma quante, dimmi, patenti ha Balotelli? Che gliel'hanno ritirata un'altra volta? Ne ha diverse, soprattutto ha diverse macchine. E, insomma, Balotelli sta giocando la carriera, sta giocando la faccia, la carriera in questa seconda esperienza al Milan. E, insomma, deve mettere la testa a posto. Credo che forse siamo oltre l'ultima chance. L'ultima chance si chiama Sinisa Mihajlovic, se non ci riesce lui è finita. Andava a 109 km all'ora dove il limite, sì, era 50. Era 50, a noi mettono in prigione, Balotelli invece. Gli ritirerò la patente. E poi ne prende un'altra. Ah, grazie Carlo Genta, ciao, forse anche questo materiale per tutti i convocati, sì, no, a partire dalle 14. Traffico a tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sui profughi, Merkel ringrazia i cittadini, stanzia altre 3 miliardi per l'accoglienza, si sentono al telefono Renzi e la cancelliera tedesca, l'Europa cambia passo, il piano prevederebbe di distribuire il 60% dei migranti tra Francia, Spagna e Germania, Francia che prepara il raid sulla Siria. Salvini intanto si scaglia contro Renzi proprio sul tema dell'immigrazione, un verme usa la morte del piccolo Aylan per propaganda, il premier ieri aveva attaccato la destra, noi siamo esseri umani, loro bestie. C'è una protesta in corso contro il prezzo del latte, migliaia di agricoltori in marcia a Bruxelles, gli allevatori collegati alla Coldiretti stanno bloccando parzialmente il confine tra Italia e Austria al Brennero. Altre due sparatorie a Napoli tra ieri sera e stamattina all'alba, due omicidi domenica, anche di questo torneremo a parlare più avanti. Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa, torna da noi. Gianandrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Hollande ha detto che sono iniziate fasi, inizieranno fasi di sorvolo sulla Siria per poi valutare raid. Come interpreti tutto questo e quali possono essere gli obiettivi della Francia? Ma diciamo che già da qualche mese in Francia e in Gran Bretagna qualche voce si alzava dicendo, ipotizzando un intervento degli anglo-francesi anche sul fronte siriano contro l'ISIS e non solo sul fronte iracheno, dove francesi e britannici sono protagonisti ormai da oltre un anno, dall'8 agosto dell'anno scorso, quando cominciarono le operazioni della coalizione. E l'onda emotiva dell'esplodere della questione dei migranti, dell'emergenza migranti, sembra averci accelerato il passo, ma non sembra aver chiarito molto le idee, perché sia a Londra che a Parigi si parla di colpire l'ISIS, però il ministro, il cancelliere dello scacchiere britannico Osborne, ha detto anche sì, ci sono due problemi, in Siria bisogna colpire l'ISIS, il male assoluto l'ISIS e il regime di Bashar Assad. Allora, se è un intervento militare rivolto a minacciare anche Bashar Assad, che è il grande nemico dell'ISIS, allora insomma la confusione aumenta. Sul piano militare, 4 incursioni in più dei pochi aerei che Francia e Gran Bretagna schierano da quelle parti non cambieranno le sorti della guerra contro l'ISIS, ISIS che sta vincendo in questo momento e sta avanzando in Siria. Gianandrea, possono servire i cosiddetti boots on the ground, ossia gli stivali sul terreno, i soldati a lavorare per sconfiggere l'ISIS? Sarebbero necessari. In questo momento l'Occidente da tempo non vuole impegnarsi militarmente con truppe sul terreno, ma anche sul fronte aereo si impegna in maniera molto blanda. La coalizione di solito effettua mediamente una ventina di raid sull'Iraq e una decina al massimo sulla Siria, non dico al giorno perché neanche tutti i giorni questo accade, ce ne vorrebbero centinaia impiegando solo le forze aeree per veramente dare una lezione militare alle forze dell'ISIS, che paradossalmente si muovono liberamente sul terreno nonostante non abbiano neppure un aeroplano e abbiano una contraerea piuttosto inefficiente. E allora il risultato qual è? Che non mettendo truppe sul terreno ma solo uno sforzo aereo, peraltro blando, che Francia e Gran Bretagna spostino alcune delle incursioni che svolgono i loro aeroplani da un fronte all'altro, da quello iracheno a quello siriano, potrà avere un valore politico sul fronte interno in Francia e in Gran Bretagna, ma sul piano militare ne avrà poco. E paradossalmente le uniche fanterie che queste forze aeree potrebbero aiutare sono quelle curde e quelle di Bashar Assad, e soprattutto queste ultime né Francia né Gran Bretagna vogliono supportarle, vogliono appoggiarle, perché Bashar Assad continua a essere un nemico e non certo un alleato. E grazie a Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa, per essere tornato da noi e per le sue analisi puntuali e le sue sintesi. Abbiamo parlato del fronte della solidarietà nei confronti dei profughi da parte di Austria e Germania, ma ieri se n'è palesato un altro fattivo, che è quello del Vaticano. Risentiamo le parole del Papa. Un gesto concreto in preparazione all'anno santo della misericordia. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Così dunque Papa Francesco. Saluto Monsignor Giancarlo Perego, che è direttore generale della Fondazione Migrantes. Monsignor Perego, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Quante parrocchie già ospitano profughi in Italia? Sono molte già le parrocchie che ospitano profughi in Italia, anche a seguito di alcuni appelli di alcuni vescovi, come il vescovo di Torino, di Milano, di Brescia, i vescovi del sud. Abbiamo parrocchie da Siracusa fino ad Arfo, nel Bresciano, a Vescovato, nel Cremonese. Le parrocchie complessivamente in Italia sono circa 27.000, e quindi chiaramente l'appello del Papa potrà allargare questa rete solidarietà e di accoglienza che già vede in prima linea le parrocchie del nostro territorio. Mi sembra che, stando ai dati, Monsignor Perego, siano circa 10.000 al momento i profughi ospitati da strutture religiose, no? I profughi sono attorno a 15.000 attualmente, 15.000. Che sono ospitati. Naturalmente c'è un turnover soprattutto per quanto riguarda coloro che vengono ospitati ma poi riprendono il cammino verso altri paesi, altre comunità o per i ricongiungimenti familiari. Però mediamente attualmente sono circa 15.000 che vedono. Monsignor Perego, lei si è fatto un'idea di che capacità di accoglienza possano avere le strutture religiose italiane? Dai numeri che ci ha fatto, e considerando che non si parla di un solo profugo ma di famiglie di profughi, immagino che una capacità di accoglienza di 50-60.000 ci sia complessivamente. Partiamo dal fatto che il Papa chiede che ogni parrocchia, sostanzialmente con gli istituti religiosi, santuari, possa ospitare una famiglia, quindi 3-4 persone. Se sono 27.000 le parrocchie, è chiaro che la capacità, rispondendo a questo appello, potrebbe essere di 100.000 persone. Una cosa che è possibile, se pensiamo che ad esempio dopo la prima guerra mondiale le nostre parrocchie sono arrivate ad ospitare anche 500.000 di persone, di profughi che fuggivano dal Friuli, dal Veneto e dal Trentino e furono ospitati soprattutto in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, fino a Marche, Lazio, Abruzzo. Quindi questo per dire che la rete può essere effettivamente capace. In ogni comune italiano, che sono 8.000, ci sono mediamente 3 parrocchie. In questo senso allora la capacità e la possibilità di un'accoglienza può raggiungere questi numeri. Se poi pensiamo all'Europa, sì, le parrocchie d'Europa sono oltre 100.000 e quindi questa capacità potrebbe allargarsi a quasi 400.000 persone, ecco. Però ripeto, non è un impegno che vuole essere collaterale a quello dello Stato, ma vuole essere una collaborazione a partire dal nostro spirito, dal comandamento dell'amore, della carità, a questa realtà e questa storia di incontro con persone che stanno camminando nella nostra Europa. La ringrazio, grazie a Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, per essere stato con noi e per averci fornito anche qualche numero. In Alto Adige, per 78.000 alunni, oggi inizia la scuola. Avranno più giorni di festa a ridosso di ogni santi. L'Alto Adige è anche la provincia d'Italia dove gli studenti restano più a lungo tra i banchi. L'anno scolastico finisce il 16 giugno. Gli ultimi saranno Puglia e Veneto. Il 16 settembre è un anno carico di novità. Abbiamo raccolto le parole del ministro dell'istruzione Stefania Giannini ieri a Cernobbio. Ma io penso che gli studenti italiani entrano in una scuola che potenzialmente è una scuola migliore. Poi lei sa bene, e chiunque si occupi di istruzione, non solo di scuola, sa altrettanto bene che questi non sono processi che trasformano la realtà su cui incidono con un click, no? Non è come cambiare, per esempio, nel Jobs Act, tu cambi la tipologia del contratto di lavoro e da quel momento tutti hanno quell'opportunità. Questi sono processi che, salvo alcune iniziative molto specifiche come la scuola lavoro che parte ora e darà subito, ma tutte quelle poche parole chiave che ho citato richiedono alcuni anni, non tantissimi, ma per andare a regime. Quindi chi entra quest'anno, come dicevo, ha un'opportunità di avere un contesto flessibile, adeguato al cambiamento e anche di imparare potenzialmente che cosa significa avere un'istruzione solida ma al tempo stesso adattabile. Senta, l'implementazione si apre in una fase comunque di tensione, questo è innegabile, si attende un anno scolastico complicato da questo punto di vista anche in termini sindacali, di agitazioni e via dicendo. Ne ho passato uno talmente complicato che posso solo migliorare. Così dunque Stefania Giannini, di questo torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione, intanto ci fermiamo e c'è la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il piano europeo per i profughi prevederebbe che il 60% andasse a Francia, Spagna e Germania. Merkel ringrazia i cittadini e stanzia altri 3 miliardi per l'accoglienza. Telefonata tra Renzi e la cancelliera. Salvini intanto contro il premier e un verme usa la morte del piccolo Aylan per propaganda. Sulle pensioni sembra tramontare l'ipotesi di un intervento già quest'anno. Non ci sarebbe copertura. Protesta contro il crollo del prezzo del latte, migliaia di agricoltori in marcia a Bruxelles, tensioni. Altre due sparatorie a Napoli tra ieri sera e stamattina all'alba, due omicidi domenica, anche di questo parleremo più avanti. Intanto la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, avevamo lasciato in sospeso il tema della scuola, abbiamo sentito il ministro Giannini scherzare, gli abbiamo chiesto insomma ma che si aspetta da quest'anno e lei ha detto beh dopo le agitazioni degli anni scorsi, dell'anno scorso, insomma non, peggio non può andare. Maria Piera Ceci, che dici? Sì Simone, ha poco da scherzare in realtà la Giannini, perché i sindacati e soprattutto le associazioni sindacali minori cercheranno in tutti i modi di mettersi di traverso per annullare l'applicazione delle varie novità previste nella buona scuola, cioè nella legge 107, chiamiamola col suo nome. A Bologna nel fine settimana si sono riunite alcune delle componenti della scuola, quelle un po' più battagliere, si è discusso dei due referendum abrogativi promossi dalla formazione politica Possibile di Civati e dallo SNALS di Napoli. In realtà non a tutti piace questa iniziativa del referendum. I sindacati al momento si muovono più che altro con assemblee locali che di fatto però potrebbero far saltare del tutto il primo giorno di scuola. Quali sono dunque queste benedette novità di cui parlava la Giannini con una certa enfasi e che non piacciono ai sindacati? Cominciamo proprio dagli insegnanti. Come sapete, l'abbiamo raccontata qui su Radio 24, è partita la fase B di assunzioni, quella che vede 7.000 insegnanti che potrebbero doversi spostare da una regione all'altra e che ha fatto parlare addirittura di deportazione. In realtà la deportazione non ci sarà, perché i prof avranno la possibilità di restare dove sono, si avranno un incarico annuale e molti ovviamente ne stanno approfittando sperando poi nel miracolo nei prossimi mesi. Quindi quest'anno è ancora un anno di passaggio, molti resteranno i supplenti, secondo alcuni calcoli saranno addirittura 50.000. Novità importante è quella dell'arrivo dell'organico dell'autonomia, cioè 55.000 prof che entro novembre saranno assunti per potenziare l'offerta formativa delle singole scuole, quindi sarà l'ultima tornata di assunzioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il dirigente scolastico è un buon dirigente scolastico, approfitterà di questo personale aggiuntivo, fino a 7 docenti in più per istituto, si calcola, per alcuni obiettivi specifici, per esempio per rafforzare l'italiano per gli stranieri, e sappiamo quanto ce n'è bisogno nelle nostre scuole, aiutare magari un piccolo gruppo più debole in matematica. Insomma, davvero i compiti possono essere tantissimi, a meno che i dirigenti scolastici non vanifichino tutto utilizzando questi docenti solo per coprire i buchi, quindi malattie dei colleghi e quant'altro, sarebbe davvero un peccato. Altra novità importante, sempre a livello di insegnanti, è il concorso del 2016, bando previsto entro il 1 dicembre. Poi, solo per fare una carrellata sulle novità, altrimenti ne parleremo per tutto effetto giorno, arrivano un po' di soldi e questa è davvero una rivoluzione, una piccola rivoluzione per una scuola che è abituata più a tagli che a immissione di risorse. Il fondo di funzionamento delle scuole raddoppia rispetto all'anno scorso, passando da 111 milioni a 233 milioni, insomma non sono briciole. Poi ci sono i 40 milioni di euro destinati alla diagnosi dello stato dei soffitti e dei controsoffitti nelle scuole, sappiamo quanto questo sia importante. E poi ci sono i soldi per l'innovazione, 90 milioni per wifi e spinta al digitale, ed era ora insomma, no? Per passare poi ai contenuti delle novità della riforma, si potenziano alcune materie come arte, musica, diritto, educazione motoria, la ginnastica sarebbe, e si dà una spinta all'alternanza scuola-lavoro, previste almeno 400 ore nell'ultimo triennio dei tecnici e dei professionali e 200 in quello dei licei, stanziati per questo 100 milioni all'anno. Certo, come ha detto la Giannini, tutte queste novità hanno bisogno di molto tempo, di sperimentazione, di indicazioni chiare alle scuole attraverso le circolari e quant'altro, ma anche di bravi dirigenti che le sappiano applicare e di docenti di buona volontà che le vogliano applicare. Quindi, insomma, bisognerà vedere. Grazie, grazie intanto alla nostra Maria Piera Ceci. Andiamo a chiudere parlando di cronaca, andiamo a Soccavo, siamo alla periferia occidentale di Napoli dove siamo alla terza sparatoria nel giro di praticamente due giorni. Saluto Leandro Del Gaudio che è un collega giornalista del Mattino, buongiorno Leandro e benvenuto. Ciao, bentrovati. Abbiamo queste tre sparatorie e poi l'omicidio del 17enne nel rione Sanità e una scia di sangue anche nel centro di Napoli, per dirla con un'espressione un po' retorica, un po' giornalistica, che non si ferma da mesi. Riesce a spiegarci in breve che cosa sta succedendo? Sì, è molto chiaro, purtroppo lo scenario è abbastanza elementare, sia nell'area occidentale, quindi a Soccavo, tra il rione Traiano e Fuorigrotta, sia al centro storico che nell'area orientale, ci sono delle contrapposizioni tra giovani che intendono lo spaccio di droga ed è purtroppo quasi banale dirlo, ma resta il motore economico dell'economia criminale. Che muove anche questo tipo di delitti, questo tipo di omicidi. A Soccavo, al rione Traiano, insomma, come dicevi tu poco fa, sono state tre sparatorie nel giro di due giorni con un volume di proiettili esplosi che è degno di una guerriglia urbana, di uno scenario di guerra. Ebbene, lì ci sono due famiglie storiche, i Cuccinelli e i Vigili, che si stanno contrapponendo per la gestione di una mezza strada, neanche di una strada intera. Perdonami, Leandro, ti fermo un attimo e ti chiedo di tenere la bocca più vicina al microfono perché sentiamo un sottofondo di audio micidiale. Abbiamo ancora un minuto. Qualcuno ha impropriamente parlato di una guerra di Camorra, dunque di guerra di Camorra non si tratta, ma si tratta di una contesa per piccole piazze di spaccio. Sono microfaide che però sono straordinariamente pericolose e preoccupanti ovviamente agli occhi degli investigatori. Non c'è una guerra che appartiene a tutta la città, che mette in campo due schieramenti un poco come eravamo abituati a vedere negli anni 80 e negli anni 90, ma ci sono delle faide per la gestione dei piccoli traffici all'interno di quartieri che da sempre sono, insomma, sono un teatro appunto di foraggiamento dell'economia criminale. Cioè Soccavo, Ponticelli, la Rione Sanità purtroppo restano delle zone in cui il piccolo pusher può farsi strada nell'ambito delle gerarchie criminali. Una guerra che non sembra che sia destinata a fermarsi. Mi sembra di capire. No, perché è più facile paradossalmente contrapporsi ad una guerra, diciamo, tra due cupole che si contrappongono, perché tu sai chi sono i mandanti, sono i moventi, quali sono i moventi, conosci bene diciamo tutta la gerarchia, rispetto a dei cani sciolti, a dei gangster che hanno 18, 19, 20 anni, che possono fare il bello e il cattivo tempo anche all'angolo della strada, possono decidere di sparare, di ammazzarsi chiaramente in modo del tutto incontrollato. Sono anche personaggi che sfuggono al controllo delle forze dell'ordine perché non c'è un archivio su un sedicenne. Cioè il ragazzo ammazzato alla Sanità due giorni fa alle 5 del mattino nel rione Sanità, uno dei rioni e dei quartieri più belli di Napoli, lo dico per sottolineare questo punto, pieno di storie e di monumenti, era un ragazzo di 17 anni di cui gli inquirenti sanno molto poco, se non che avesse dei piccoli precedenti, però non si sapeva che vita conduceva, probabilmente apparteneva ad un gruppo che si contendeva con un altro gruppo la gestione di una panchina, di un marciapiede, perché è lì che avviene lo spaccio di hashish, lì che avviene lo spaccio di droghe leggere, soprattutto nel fine settimana, e questo sta avvenendo a Napoli e anche in altre zone della città. Ti ringrazio, grazie a Leandro Del Gaudio, giornalista del Mattino, per averci aiutato a capire. Ci si ammazza per una panchina o un marciapiede di spazio dove spacciare. Traffico.